E noi ve l'avevamo fatto sentire proprio in anteprimissima, Alvaro Soler con questa Sofia, perché l'avevamo incontrato davvero un bel po' di tempo fa. Era stato ospite, nostro ospite al Sabato del Villaggio, avevamo già scommesso sul tormentone e questa era una scommessa molto facile, molto molto facile, effettivamente è andato molto bene. Poi davvero, come ci ha svelato Gianni Sibilla, era stato presentato un po' in anticipo sulla stagione estiva perché poi sarebbe stato annunciato il suo impegno come coach, come giudice di X Factor. Ma i tormentoni sono mica solo in musica, anche se questi tormentoni che abbiamo citato ci terranno un po' compagnia in questo Sabato del Villaggio. Ci sono dei tormentoni anche in fatto di cibo, di ristoranti. E allora non possiamo che chiederlo al nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, ciao, ma il tormentone è soprattutto mio, perché già da 20 giorni è iniziata la stagione e verso le 8 di sera il mio telefono brucia perché ricevo telefonate. Sono qui, dove posso andare a mangiare sul mare? Dove posso andare a mangiare al fresco? E allora è un tormentone che, diciamo che è un tormentone piacevole. Ora, chi mi ascolta, se c'è qualcuno in ascolto che mi telefona, continua a telefonarmi perché è sempre un piacere. Però a questo punto inizia, non mi capita d'inverno, nessuno mi chiama per dire voglio andare a mangiare nella neve. Questa espressione pied en l'eau, cioè è troppo bella, cioè piedi nell'acqua, pensa come dà l'idea già di come poi di volgare, invece piedi en l'eau francese, è tutto più chic. Sembra Chanel numero 5 così, no? verissimo. E allora io, cioè, ecco, ora mi buttano avanti, do 10-15 posti sperando di esaudire molti desideri di chi mi ha ascolto. Sono 10-15 telefonate in meno che riceverai, Davide. Ma guarda, voglio cominciare, perché facciamo anche un po' di cultura, cavolo. Allora voglio cominciare, perché il cibo è cultura, ma ci sono anche degli aspetti molto interessanti. In Abruzzo ci sono i trabocchi. Cosa sono i trabocchi? Sono diciamo delle costruzioni in legno sul mare. Erano fatte perché chi le ha costruite non sapeva nuotare, però voleva pescare e quindi doveva andare molto in avanti. Ma chi frequentava i trabocchi era D'Annunzio. Sai come aveva definiti? Una roba strepitosa. Uno scheletro colossale di un anfibio antidiluviano. E questa definizione era il trabocco sotto casa sua, che si chiama Trabocco di Punta Cavalluccio, San Vito Chietino a Fossacesia, dove è tenuto da una famiglia che si chiama Verì, che è di tradizione dei trabocchi. Bene, più sul mare di così si muore, sai perché? Perché è una quarantina di metri in avanti dalla spiaggia, quindi praticamente sei già in acqua, o sei oltre la spiaggia. Quindi più che le pied en l'eau, sei proprio don l'eau, veramente. Questo però è proprio don l'eau, e questo lo consiglio. Ma ce n'è un altro, sempre frequentato dal nostro Vate, che è Villa Fiordaliso, Verdone Riviera, qui siamo sul lago. Anche qui si vede che lui aveva la passione di mangiare sull'acqua, perché Villa Fiordaliso, Verdone Riviera, è proprio sull'acqua, ed è un posto bellissimo, appunto sul lago di Garda. E qui il Vate D'Annunzio addirittura aveva un angolo particolare dove andava a mangiare, e qui è anche famoso questo posto perché è stata l'ultima notte di Mussolini con Claretta Petacci, quindi è anche un altro luogo storico. Ma ora comincio anche a dare così una sventagliata su tutta Italia. Allora cominciamo da Riccione. A Riccione andiamo da Azzurra è un ristorante proprio sulla spiaggia, quindi si può andare a mangiare, diciamo che si possono andare a bagnare i piedi, asciugare sulla sabbia e poi mettersi a sedere. E quindi anche questo è molto piacevole, perché mangiare in questa maniera magari è piacevolissimo. Qui si mangia ovviamente del grande pesce, perché quasi tutti i ristoranti o le trattorie o i posti sul mare o i bagni che citerò ovviamente si mangia pesce. E sempre vicino a, diciamo, a Riccione, perché Azzurra è a Riccione, a Miramare di Rimini, c'è l'Osteria del Mare di due fratelli, Luca e Paolo, che hanno una specialità, io la consiglio qui, la crudità di spiaggia. Cosa intendono? per crudità di spiaggia, non è la crudità, diciamo, giapponese, ma è quello che si trova, che trovano al mattino dai pescatori, quindi tutto quello che porta il mare Adriatico loro lo preparano, quindi diciamo proprio dal mare al ristorante, e qui si mangia coi piedi nell'acqua e si mangia veramente del pesce molto fresco. Fantastico. Poi andiamo nel Tirreno, andiamo a Bibbona, andiamo a un locale che si chiama La Pineta di Bibbona, e qui c'è un patron che si chiama Luciano Zazzeri, che è un pescatore che quindi di pesce se ne intende molto, ma soprattutto di cotture. Ecco perché negli ultimi anni, se si va a mangiare pesce nella maggior parte dei ristoranti, sulle ali dei giapponesi o ti danno pesce crudo, che è molto facile per uno ristoratore avere pesce crudo, il pescivendolo glielo porta, magari glielo taglia anche, quindi certo, la bravura del ristoratore non c'è, la bravura poi è nella cottura ovviamente, oppure si mangiano del pesce molto lavorato, e c'è questa mania di rendere i pesci con salse particolari, tranci. Ecco, l'idea del trancio a me dei pesci mi dà abbastanza noia, io desidero sempre dei pesci interi, è evidente che non mi posso mangiare un pesce di 1,5 kg, cerco di mangiare i pesci piccoli, chiamiamoli così, i pesci azzurri soprattutto, e Luciano Zazzeri della Pineta di Bibbona usa molto la padella e la brace, quindi secondo me sono due modi molto interessanti e molto salutari di mangiare, molto molto gustosi. Poi c'è un posto veramente bellissimo, credo anche questo molto romantico, che è sopra la Grotta Azzurra. Sì. Sopra la Grotta Azzurra, ad Ana Capri, a Capri, che si chiama Il Riccio. Il Riccio proprio è, diciamo, sopra la Grotta Azzurra, si possono scendere gli scalini e fare un bellissimo bagno, poi risalire e mangiare delle ottime cose. Poi c'è anche una sala dedicata a tutta la pasticceria e i dolci, chi vuole ingrassare lo può fare benissimo. Ma ingrassiamo con gioia, Capri, ma certo. Perché dici poi uno un bagno ha smaltito. Esattamente, facciamo il contrario, il contrario. Proprio questo, io non so se sei in ascolto, però visto di dimagrire voglio mandare un caro saluto a un amico che era 185 kg, ne ha perso 85 però, con grande forza di volontà, un noto pasticciere, e quindi lo voglio salutare. Un amico continua. Andiamo sul lungomare di Marina di Ragusa, io lo chiamo Ragusa Beach. Mm-hmm. C'è la trattoria da Carmelo, anche questo proprio sulla spiaggia, dove consiglio un ottimo couscous. Questa è una zona che negli ultimi anni è diventata molto modaiola, quindi va benissimo. Rimaniamo in Sicilia, e chi va a Taormina faccia qualche chilometro in più e vada a Lettoianni, dove c'è un ristorante che si chiama Dannino, dove io consiglio, ecco, in questo caso consiglio di mangiare il crudo, perché è un crudo all'italiana, devo dire, di solito ha dei tonni che fa un crudo di tonno veramente incredibile, poi è un personaggio molto, molto simpatico e molto divertente, quindi è anche piacevole, perché quando si va a mangiare che c'è il ristoratore che ha dei musi lunghi o il cameriere che non è molto educato, magari no, anche infatti, quello, anche se anche il cibo è il più buono del mondo, non lo so. Esattamente. Ritorno sul lago e andiamo a Verbania, al piccolo lago. Questo è un ristorante stellato, è un ristorante stellato molto importante, fa dei risotti veramente strepitosi, quindi chi va al lago, c'è anche una canzone, no? Mi sembra che porti al lago alla domenica, mi sembra. Fabio Concato, certo, Fabio domenica Concato, ti porterà domenica sul lago. Qualcuno domani magari andrà sul lago, quindi a Verbania, piccolo lago. Piccolo lago, sì. E poi andiamo a Baia Beniamin, tra Capo Mortola o Mortola e il nuovo parto di Mentone. Allora, qui è un posto secondo me da fuga. Io l'ho sempre definito questo qui un posto da fuga, perché è sulla sabbia, ha 4-5 camere e quindi uno si può anche isolato dal mondo. Quindi veramente uno si può isolare, può arrivare, può mangiare, può dormire, può fare il bagno, insomma, può fare di tutto, e quindi credo che sia un posto da segnare sul taccuino. E poi anche nella costiera, sicuramente bisogna segnalare un posto sulla costiera, perché è un altro posto molto molto molto battuto, che è la Taverna del Capitano, sulla spiaggia di Neirano, Lo spiaggio di Nairano non è facile arrivarci, però è un posto che sicuramente vale la pena di andare, perché chi arriva sulla costiera può farlo benissimo. E poi ancora magari vi porto a Ischia. A Ischia, ecco, qui vi porto su una bellissima terrazza sul mare, da Umberto c'è una bellissima terrazza sul mare a picco, e quindi secondo me è un altro posto che vale la pena chi va a Ischia, perché Ischia ultimamente è molto, molto bazzicata. Poi torniamo veramente alla sabbia e andiamo a Forte dei Marmi, e andiamo a un bagno famosissimo, però dove si mangia anche discretamente bene. In quella zona lì ci sono molti bagni che offrono anche il cibo. Allora, a Forte dei Marmi ve ne consiglio due. Uno è il Bagno Piero. Beh, il Bagno Piero è un po', come posso dire, un bagno noto, bazzicato molto dalla borghesia milanese, quindi sicuramente va benissimo. Poi un altro bagno, che è il Bagno da Luca, dove si mangiano degli spaghetti con delle telline veramente strepitose. Ecco, le telline non sono più facili da trovare, perché ci sono delle limitazioni vicino alla spiaggia, non si possono più raccogliere, quindi si trovano, diciamo, difficilmente. Pare che arrivino molto dalla Francia, e chi di locale ci sia ben poco. Però le telline sono un piatto straordinario, e si aggiungono alle vongole e alle poveracce, come le chiamano a Rimini e dintorni. Le poveracce, che era un piatto povero un tempo, oggi comprate le stelline, a chilo vi accorgerete che non sono più poveracce, ma sono diventate molto, ma molto ricche. Davide, sono le 15:29 e io ho già voglia di spaghetti con le telline, non c'è niente da fare. Allora sicuramente prendi e vai. Se vuoi ti do un posto che non è sul mare. Dai, dammi un ultimo posto, perfetto. Ti do il posto da Romano a Viareggio. Ecco, non hai i piedi nell'acqua, perché è un po' nel centro di Viareggio, ma sei sicura di mangiare non solo le telline, ma un po' tutto in maniera veramente straordinaria. È un ristorante di pesce che io credo che ce ne siano pochi. Se invece vuoi fare una fuga, te l'ho già detto un paio di settimane fa, ti consiglio di andare al Clandestino, e quindi al Clandestino di cui abbiamo parlato, che è a Porto Novo sull'Adriatico. Lì puoi mangiare cose particolari, ma faremo anche una serata a suono di musica. Fantastico, grazie Davide per essere stato con noi anche questo sabato. Io mi sono preso un sacco di appunti, ho un foglio intero di appunti. Comunque, per tutti coloro che magari fossero in macchina, non fossero riusciti a segnare tutto, c'è ovviamente il nostro podcast sul sito radio24.it. Grazie al nostro gastronauta Davide, al prossimo sabato. Buona domenica a tutti.